sono degli amici e se quando ti serve una bombola va sempre il numero e te la portano a domicilio. Ho preso di coso, di montaggio. Ma giustamente sono fatti per portarla a domicilio. Capito, ci sono fatti proprio per portarli a casa. Ma ti volevo chiedere una cosa tu, ma quei prezzi di là, quei prezzi della bombola, sono compresi già tutto quanto con manodopera? Certamente che sì. Quelli sono fatti proprio per portarli a casa, hai capito? Certamente che sì. Ok, là va bene. No, era giusto per sapere, almeno quando vedono gli amici che vengono al circo, dico guarda che quella lì è compresa tutto quanto, ok? Già ce ne sono parecchi che sono lì nella zona, che abitano lì, anche abitano la zona di Alumberto, lì di Via Oriane, tutta quella zona lì. Ehi, va bene, più che bene. Caffa. Ok, avanti lui. E purtroppo già ci vuole questo delle bombole, già ci vuole, e ormai sono quasi tutti, quando la prendi te la portano a casa, paghi la differenza e non so se te la piazzano pure, però già, voglio dire, te la portano a casa ed è giusto che sia così, dai, fai pagare qualcosa in più, tanto molta gente non lo sa che le bombole non le può trasportare, capito? Molta gente non lo sa. Già ce le prendono e cosa? Molte volte ti fanno studi, giovedì mattina che ci li pigliano, però quelli sono loro stessi che vengono a prendersele. Se riconosco meglio. Comunque, stavo dicendo, sì, beh, logicamente del montaggio, cioè non è che il montaggio ci vuole, se vai a casa sua logicamente gliela devi smontare, perché, ma quello non c'è problema, non c'è. Alcuni si rifiutano di portarle a piedi, hai capito? Stanno facendo questa politica, cioè se è un quinto se studiano a piedi non ne portano. Di solito, io per esempio sono uno di quelli che la bombola non aspetta quando finisce, io ce l'ho sempre di scorta, hai capito? Vabbè, piazzare la piazzo io, però non aspetta quando finisce la bombola, hai capito? Io ce l'ho sempre di scorta una, hai capito? Tanto quando si svuota una, c'ho l'altra piena, allora prima che si manchi l'altra, mi prendo l'altra, hai capito? Ce l'ho sempre di scorta. La bombola ce l'ho sempre di scorta, io, hai capito? Non aspetto che finiscano, molti faranno così e aspettano quando finisce la bomba, no, io non faccio così, io me la prendo, ce l'ho di scorta prima che finisca, capito? Qua, posso averla anche un mese prima, lì è messa da parte, capito? E quando finisce gliela metto, quando faccio portare un'altra, c'ho sempre una scorta piena. Per capo, è così che si dovrebbe fare, io ce l'ho sempre, ce l'ho sempre la buca, ma anche quando non facevo quel mestiere. Non facevamo quel mestiere lì, ce l'abbiamo sempre avuta a casa, ma c'è un bel di gente che manca a parlarne, se dici sulla bomba di scorta dice che stai in mezzo ai piedi, fanno tutti quei discorsi, hai capito? Senti, ma voi l'ADR non ce l'avete, tuo padre probabilmente, o no? Tuo padre probabilmente ce l'ha l'ADR. No, non ci vuole fino a un, mi sembra, fino a 300-400 kg, non me lo ricordo adesso. Allora non me ne ammento quant'è, sinceramente. Fino a quanto porta quella macchina. Cioè, se prende un furgoncino, sì. Per esempio, Palace l'ha dovuta prendere, questo formulario che c'è qua, perché ha uno di quei furgoncini grandi, hai capito? Se l'ha dovuta prendere. Però fino a un certo tanto no, non ci vuole. Quanto è il botto? Adesso non me lo ricordo neanche io, pare siano 4 quintali e 50, ciao Gigi. Dopo che allora, sentito Dio. Per forza, seguiti un camioncino di quelli di poco lato tipo il Deli, quello grande. Allora sì. Zitti, voi che grotte a tutto sì. Ah, sono Gigi, grotte, Gigi. Ti ho sentito sotto Antonio, ciao Falche, Antonio Falchetto, buonasera. No, perché ti ho sentito che stavo parlando Antonio, che hai salutato e non sapevo, non ho riconosciuto la modulazione, dai. Ciao Antonio. Ciao Gigi, ciao Antonio, anche a te. E ciao Falchetto. Dai, riprendete, Don Antonio Falchetto, buonasera. Che dice, dov'è? Tutto bene, tutto bene. Ho detto dove sei? Perché non ci vede la modulazione dove sono, no? Ah, dove sei, a casa? Certo che sì. Mamma mia, non lo sto. Oi. Andate, riprendetela. Zittivola. Infatti non ti ho più sentito, sperando che stai sempre trabaccando, perché alla... molti chiedono di te che fine ha fatto, dice quello che sentiva la mattina, dice che fine ha fatto, ormai non modula più, ha detto che sarà trabaccando. Erano sempre trabaccando, quando si può Gigi si entra a lavoro, purtroppo è lavoro, sarà stanchezza e via dicendo e siamo lì, dai. Positivo, e già va bene, dai, già va bene, che bene, ok. Positivo, il cappa del roccio. Non vuoi dire, dicendo, io cibo, Antonio, tu e poi. Tanto, per il momento non c'è altro nessuno, siamo solamente noi. Positivo, dai, positivo, il cappa del roccio. Che apparato stai usando, Gigi? Me. Gigi, Vulcano, che apparato stai usando? Se un apparato da 500 euro. Aia, roba pesante. Un apparato che ho pagato 500, che è costato 500 euro, che costa 550 euro della verità questo. Scarpa, che marca è? Midla, è un Midla. Ah, ho capito, non è là ancora sotto, no? C'è un Midla, ho detto che è un Midla. Un Midla con la... Forse io ho mezzo capito che paraghino è. Scarpa. Stai usando adesso, Giuse? Capito. Stamattina abbiamo incontrato il buon Claudio. Ci siamo presi una cafina e poi ce ne siamo andati. È tutto ok. Stavo dicendo a tuo bomboli, da domani ci inizia a trabaccare, capito? Caffa, arrugato, mamma mia. Purtroppo, va bene tu, ho caldo freddo, quando c'è il lavoro bisogna farlo. Perché caffa, già lo so, è solo che non ce n'è cazzo, ma è un po' di ore buttato lì. Adesso non c'è niente, d'inverno si comincia a lavorare. Vabbè, ma nel posto dove devo andare io, zona di mare, dunque, indovina chi è, se indovini chi è, purtroppo non ce n'è altro e mi tocca farlo a tu. Non sarà che sono paracuro, no? Cappa. Mamma mia. Non ce n'è altro. Non c'è altro. Che mi esce, capito? Basta andare avanti la tua strada. Non c'è altro. E a fine mese, quando andare e bussare la porta. Io ho fatto il mese e voglio il cash. Se no, sono cavoli amari. Ma tu non scende mai, no? Ma sono un po' di nome di voce, già se ritornano di onde di cerca incrosate, non vedo neanche giusto da parte tua. Lo so, però il discorso, cazzo se mi chiama, cosa devo fare, tu? Il discorso è quello, se mi chiama, se non ho altro, cosa devo fare? No, contento tu, contento tutti. Vado una domanda qua. Allora, cazzo, non ti lamentare pure se ti butti, cazzo. Sei un pezzo di merda, non ti lamentare, cazzo. Già lo sai come sono questa gente. Lo so, ma... cosa faccio? Rimango così, senza far niente, a trattarmi le palle e tutto quanto, cazzo che con 500 euro che prende mia madre di pensione, tu ci campi. Cazzo, ma se non ti paga, quello cazzo deve fare? Ma lui ti ha promesso che ti paga. Ma ha detto che lui a fine mese, quando faccio il mese, mi dà tutti i soldi, tutti. Ma io gli ho detto, lei se sbaglia questa volta ha finito per sempre, perché io ho messo le carte in tavola, tutto quanto, ho fatto un piccolo discorsetto, e gli ho detto, lei ogni mese, come io faccio il mese, voglio tutti i soldi, se no ce ne cerco un altro. Andiamo bene anche. Guarda, io non mi auguro solo che ti paghi il cazzo, cioè che non te lo faccio le palle, solo quello. Il discorso è anche l'altro, sai, era per questi mesi, questi due mesi, tre mesi che prendeva. Sai quanto mi voleva dare a tu? A me, quell'altro stabilimento? 400 euro al mese, hai capito? 400 euro al mese? E dove? Alghero, a fare il guardiano notturno. Cazzo, ho detto, io con 400 euro ce li metto solo in benzina, ma ha capito? Roba a parte qua. Cazzo, non si può futtire la gente così, cazzo. E appunto perciò ti rendo conto, allora il primo stipendio, quello lì, il primo stipendio mi aveva dato 800 euro, poi il secondo mese, quando ho fatto, me l'ho aumentato di 100 euro, 900 euro, e il terzo mi stava dando 1000 euro, hai capito, 1000, alla fine, invece, c'è stato una cosa, quando mi doveva dare lo stipendio, me l'aveva pizzicato 150 euro, hai capito, da 1000 euro, dall'ultimo stipendio, hai capito? Che gente, per carità, avanti lui. Sì, ma Giuseppe, fa una cosa, utilizzi la canzona, le giovani davani, prima di travagliare, fidevi pagare. Non hai compreso la canzone, ti dice, fate pagare prima, Giuseppe, dice, no, fammi vedere prima e poi venga a travagliare. Appunto perciò, adesso, domani ci vedrà, domani, scritto tutto quanto, rifirmo il contratto, perché mi fa firmare il contratto, dunque ne rimane una copia a me e una copia a lui. Io con quello lì sono a posto, capito? E gli ho detto, voglio essere anche assicurato, se no è inutile che io ci scenda giù, se lì non mi assicuri. Non me ne frega niente, io voglio essere, mi dà qualcosa in meno, però voglio essere assicurato. Sì, perché almeno ti fanno qualcosa di malattia, se c'è bisogno, capito? Invece di stamattina ti puoi venire se non sei assicurato, sei dentro a pagare. Perciò io ho messo le cose in chiaro, tutto quanto, come firmo il contratto, io dico, io ho già detto, io come firmo il contratto, io dico, questo contratto vale come accensione effettiva, assicurate tutto quanto. Positivo, siete portati meno di bianco, riprendi tanto. Scappa. Oh Giulia. Andiamo bene, no, che cazzo. Ma non hai domandato a chi c'è cazzo, che si viene stagionale, a chi si che consegna le gelate. L'altra. Allora, la gira molta, sta cazzo chi c'è. Ya, bunu bileyen de adamlarda. Allora, gli ho portato il curriculum, mi ha detto che mi chiamava per fare un colloquio, però non ho avuto nessuna risposta, capito? Perché conosco anche uno dei padroncini e lì e dunque mi ha detto lascia il curriculum alla segretaria, guarderanno loro, ti chiameranno per fare un colloquio. Tu vinci te di là, aspettate la gente io. Cioè sono una situazione troppo strana in casa. È così, è così a tu. Oi oi oi, la carità. Oi oi oi. A tu. Ancora passa io. Giulio. Se non ti avvicini a Brasa, passa. Chi è che vuole entrare? Parchetto solo, ascolta, poi se vengo trovo la radio, vado. Ah, la radio è una bomba, va bene. Ciao, ciao, e te Giuseppe? Uguale, uguale, mi sta arrivando una bomboletta, ho fatto. Ciao, papà, riprendete. E Gigino, andato? Mi ha fatto un attimo di bianco e stava facendo cosa, dai. Va bene, riprendete, va. Ciao, ciao. Cazzo, quando mai cazzo, ma nessuno si è appoggiato a lavorare, cazzo, non è possibile, cazzo. Sì, facciamo perdere, dai. Non è così noto, non è così. Oi, oi, oi. Ora, ora. Che guidati, furgone, tu? Certo. Ho detto che il furgone già gli guidate. Voi alla grande. Ha guidato pure l'ambulanza. Vabbè, ho guidato anche l'ambulanza, non è quello il problema, però la gente se il discorso è quello, so che ti ho spiegato, no? Una certa età, quando compri con una certa età, cioè dai 45 ai 50 anni, non ti piglia più nessuno, adesso stanno pigliando questi giovani che sono lavorati dal coso e metà li paga lo Stato e metà li paga il titolare, capito? Non so. Stavo dicendo, chiedilo a coso, e tu tanto non ha gana di travagliare, mandalo nei gruppiani. Ah, a Massimo, a casa che vecchi su, c'è un suo amico, un suo parente, non so cosa, che cerca sempre qualcuno a fare i trasporti col camion della birra. Fa trasporti di birra, trasporta carte di birra, un sacco di cose. Ah, cosa stai dicendo? Ah, io ho capito, quello c'è il furgone, quello bianco, trasporto, e ho capito, anche quello glielo ho detto, Albino sta dicendo. Mi pare. Glielo ho detto anche a lui, l'ho detto, ma ha detto che per adesso non stanno assumendo nessuno perché non c'è lavoro e niente, e c'erano già un ragazzo di colore che li fa tutto quanto come magazziniere, tutto quanto, li carica la birra e li fa altri trasporti, capito? Cappa, e chi so? Ma te dite? Mi ha tanto biglietto, figlia, quando non c'è. Quando non c'è nessuno, capito? E cosa vuoi che ti dia a quello lì? Cosa vuoi che ti dia? A me mi ha detto che gli dava 150 euro alla settimana. Hai capito? Poi non so se è vero, se sono balle che sto dicendo, e poi se è verità. Quello che mi ha detto lui, se gli dava 150 euro a settimana. E mi ha detto pure a me, comunque 150 euro alla settimana non sono mica male. E vabbè, non sono male no, però... Quanto? Però entra la mattina alle 7 e mezza e la sera te le va via anche 7 e mezza, 8, 9. Lo so. e quando deve andare fuori, deve portare la merce fuori, tipo Santa Teresa, Olbia, perché anche lui fa questi trasporti così, hai capito, consiglia la merce anche fuori, a Olbia, a Zacchena, a Canigione, a Porto Cervo, quella zona, hai capito. Adesso non so, ma penso che a Ghidu, che quello che ti ha visto, penso che non li dia così. No, lui li dà 150 a settimana, è in città, hai capito, quando fai trasporti, porta la merce in città, ma per andare fuori va al vino, hai capito, che ne incassa molto di più. Scappa, e per già lui non è macchino. Se permetti, deve pagarsi, vabbè, lui c'ha tutte quante le spese, c'ha le spese del furgone, della naffata e tutto quanto a carico suo, capito, un po' di responsabilità ce l'ha lui, capito? Beh, certo, sì, ma già ne guadagna tutti, non ti preoccupare. Io lo so che ne guadagna, io lo so, sì. E una o due volte l'ha consegnata anche a mio fratello la birra, quei peruccini da 33, hai capito, della Echinusa, ne ha ordinato anche 10 casse, 15, dipende quanto ne aveva, capito. Ma voi non prendete tuo fratello, che birra prende? I peruccini prende da quella della Echinusa, capito. E la grande cosa prende? La grande c'ha, aspetta, come cazzo si chiama, la, e c'ha la Moretti, e l'altra c'ha un'altra marca, dai. Papà, mi sembra che ho visto il cane della Moretti un giorno. Strano che non protestino i clienti. No, ma lì, non sai com'è il discorso, se li dai tot, bevono tot, se dai quella e bevono quella, capito? No, non c'è di selezione, capito? Non è che ti dicono no, io voglio quella lì. Lì il circolo non è come il bar, che cioè quella, nel bar c'è solo quella birra là, capito? Nel circolo puoi avere la Moretti, l'Echinusa, la Dre, come ti posso dire, la Valcan, tutta quella roba là, capito? No, perché molti, soprattutto nei circoli, per esempio il circolo che c'è qua, lo so per certo, questi due circoli che sono qua, lo so per certo, è proprio di altra birra non è buone, c'è o il Echinusa o niente, ma proprio così è. Lo so, c'è il circolo che vogliono solo quella lì, e c'è il circolo che vogliono l'altra birra, la Moretti, perché l'Echinusa dice no, non gli piace. Però sei costretto a prendere quella la birra che ti chiede il cliente, capito? Certo. È un bel strano, ma è caso. Di solito voglio sempre l'Echinusa, ma proprio detto da loro, dice che se li bocca la birra ti viene sciucate le palle. Hai capito? Ehi, va bene, dai. Oh, ci sentiamo dopo, se coincide, dai. Ma tu, che adesso mi draghi un po' e ci sentiamo stasera, dai, se coincide.